Noi abbiamo pensato di fare alcune cose, la merenda di quartiere che potrebbe essere itinerante per gli altri posti, ognuno con la sua specialità, e abbiamo pensato di fare un brunch il sabato e poi continuare con le colazioni, queste cose. L'asporto non sono molto convinta, perché tanto ci sono comunque i negozi di vicinato, in altri posti c'è chi passa, lo sapete, con la bicicletta e la birra fredda, cioè non posso vendere io una birra a 3 euro, 3 euro e mezzo. Lì dentro c'era il mio locale, il servizio, la compagnia, c'era tutto. Comunque lei dice che questo DPCM colpisce indiscriminatamente tutti quanti. Sì, colpisce tutti. Ma soprattutto noi, perché ci sono anche le mie socie e ci sono anche tutti gli altri baristi e anche i ristoratori. Pensiamo che facendo così si interrompe un flusso. È come quando si vogliono irrigare dei campi. Se a un certo punto tu metti un bastone, passa poca acqua, pian piano quello che sta sotto diventerà arido, perché il bar è fatto di tanti indotto. Cioè, noi compriamo tante cose. Se non abbiamo i soldi noi, non possiamo neanche noi andarne a comprare altre. Quindi, cioè, tra un po' sarà arido anche l'altro, cioè. È anche un presidio, diciamo così, la luce accesa del bar è anche un presidio nella sera, alle ore serali, contro la criminalità. Certo, cioè se spegniamo le luci noi qua, ovviamente, come si vedono in altri posti, viene a mancare, noi siamo un punto di riferimento per tutto il quartiere, quindi viene a mancare fino a un certo orario quella sicurezza. Cioè, le ragazze, noi siamo tutte donne e alla sera ci sono due ragazze, loro stanno qua tranquillamente, lavorano, vanno a casa, abitano vicino, molto tranquillamente, perché ho sempre mantenuto dentro il bar una clientela sana. Che sana non vuol dire quello che, cioè, uno può bere, magari si ubriaca pure, però sana per tanti punti di vista, perché comunque era sempre controllato. Al buio qua non credo, cioè, non credo che faccia piacere a nessuno questa cosa.